Diciamo che sei un 920 pieno, non, se hai messo l'antenna non sei cambiato, mostruosamente. Interrogativo, hai cambiato l'antenna? No, l'ho salita molto di più, almeno un metro più alta. Guarda, forte eri, forte sei rimasto. Poi questo smitter lo sai che è di difficile lettura, ci sono differenze microscopiche. Diciamo che più di tanto non sei andato, dai. K. Vabbè, dai, l'importante è che... ma siamo vicini a tu, quello che conta è la distanza, sicuramente in distanza qualcosa hai guadagnato. Devo chiedere a Gianfranco, Gianfranco quanto ti arrivo? Su questo apparecchio purtroppo non c'è segnale, c'è solo una serie di numeri che per l'ACB sono insignificanti. Ti faccio un esempio, Marco arriva a 10 che sarebbe un fondo scala, tu dovresti arrivare tra l'8 e il 9, quindi decifrarlo tu. La radio è comprensibile, è tranquilla. E ne ho tolto l'eco adesso perché magari rimbombava troppo. Sì, no, va bene. Ripeto, il segnale purtroppo qua è differente dalle smette normali, per così dire. Ok, Marco, io devo scappare adesso perché sennò non mangio. Io devo fare la cena e quindi mi devo anche affrettare a prepararla perché è tardissimo, se no poi non digerisco un tubo. Riprendete voi magari, ci sentiamo, buona serata a tutti. E io Gianfra, dai, buona serata, buon tutto e alle prossime, dai, ci sentiamo. Vai a tu. Saluto di Gianfra, ce la risentiamo alle prossimine. E comunque mi hanno detto molti che ho migliorato, dai, un pochettino. Adesso è bella alta, È l'unica cosa che potevo fare. Il più vicino sei tu comunque. Sì, anche quello, è che siamo abbastanza vicini. Se avessi avuto il Kenwood ti avrei potuto dare un controllo più preciso, ma quello l'avevo dato anni fa perché non riuscivo a farmelo piacere, dai. Non preferisco i baracchini volgari, così. Che no, non andava bene. No, già era perfetto, è che con la mia timbrica di voce non rendeva più di tanto, poi altre cose, non avevo la squelcina M, cioè alla fine era un barazzone che faceva facente funzioni di baracchino, allora è inutile, preferisco un veicolare qua, prende meno spazio, canalizzato, basta, finito, modulazione normale, mic normale, originale, questo è pure omologato. Allora quanto mi arrivi tu a me? A fondo scala, sì. Ma hai lo smitter a LED? No, è lo smitter analogico. Allora, vediamo attenuato quanto arrivi. È che ormai, cioè, l'hai già alzata l'antenna, vedi? Forse hai sbagliato, hai toccato il mic gain. Ehi, tutte e due ho toccato, Anto, rimbambito io. Addirittura se ti attenuo ti porta a zero, questo c'è un'attenuazione notevole, questo RF gain, ti porta a zero, quindi non fa... E comunque ripeto, l'antenna l'hai già alzata e quindi non so come arrivavi prima, però grosso modo siamo lì. Non fa testo, siamo abbastanza vicini, cioè l'antenna gira, ci vedono pure me in quella zona lì. Bene, quindi stasera in programma c'è un film interessante, vediamo di vedere quello. Scappa. Da cosa? Da Pomponio arrivo 9.25, arrivo. Da Roberto su arrivo 9.15, ha detto lui. Per la distanza che c'è, non è male. Da Claudio mi pare che arrivo 9.10, qualcosa del genere. Sì, con l'antenna è praticamente, cioè tutti quelli che la comprano la mettono in terrazzini, balconi, finestre, ma abbastanza in basso e quindi poi si trovano comunque circondate dai palazzi. Però messa sul tetto ti permette almeno di modulare, di avere stazionarie presumibilmente basse segnale che c'era nel manuale, una tabella, dice per avere stazionarie basse devi mettere il cavo di 8 metri, adesso non mi ricordo le misure, ti dico una cosa a caso, che ne so, tipo 3 metri, 5 metri, 8 metri, c'era una tabella, io l'avevo messo a casaccio il cavo, un cavo di misura X tipo 10 metri e stazionaria non ne aveva, però era messa nel terrazzino, quindi non sentivo quasi nessuno, non mi sentivano eccetera, però sul tetto del palazzo è già tutta una come si dice, un'altra questione, capito? No, si può mettere anche da tetto, si può mettere tranquillamente, si può mettere e sia per balcone sia per... io a casa a latte dolce cazzo cibo forte mi con quella che c'avevo, con quella di babbo, questa è la mia, quella che c'aveva latte dolce era quella di babbo, era e sia forte mi. Allora qua c'è 5 metri e 46 di capo, cioè. Ehi, ma tu hai seguito proprio il manuale? Ho seguito il manuale perché c'avevo stazionaria con l'altro capo, perché era sbagliato. Allora l'ho fatto, 5 metri, 46, finito le stazioni, manco si muove qua. Meia, sì, quarantenna è diciamo molto caricata, però se la cava, se è messa in alto, dai. Cioè per installazioni così temporanee va più che bene. Io ho sempre quella Energy che avevo messo qualche anno fa, adesso c'è già vari anni, sembra un anno, due, tre, no, sono passati 5 o 6 anni almeno. La Ringo l'avevo tolta dopo un anno per la disperazione e l'avevo data la Ringo a Pomponio per pezzi di cambio così, per l'alluminio. E questa finché dura, finché non si sfascia la lascio, quando si sfascia poi non lo so se la cambierò. La passione è un po' passata, Antu. E così, dai. Scappa. Comunque ti dico una cosa, ti dico che molti dicono metti il nastro vulcanizzante e cosa, a me una bacciona, ma e l'ho sentita anche in radio come ha fatto, ha detto zappuccio, rugrasso zappuccio, scivola l'acqua e non entra acqua, come ha detto una persona, ha detto io l'ho fatto 1-1, neanche 1-1 di stazionare, manco si muove quel coso. Mi stavo toccando l'apparecchio freddo perché c'è anche il finale a MOSFET questo. Cioè, manco si muove quel coso lì. Aiutami. Ehi, Rosmetro, manco si muove. Ehi. Dove volevo arrivare però, porca miseria, stavo parlando Rosmet, antenna e boh, mi sono perso. Mi ha detto che anche tu ce l'avevi quella, sì, l'avevo provata, poi peraltro di due staffettine che aveva, una credo di averla smarrita e io sono pignolo, se non la trovo identica non, roba diversa non ne metto. Chissà dove è finita, magari persa qua in casa, magari c'è ma non la trovo. E poi vabbè, roba così, che si prova e poi si accantona. E poi in proporzione costava, la GBC costava un sacco quell'antenna Storm, quella da un metro lì, bazooka come la vuoi chiamare. Vabbè che lì è tutto caro, no. Però in proporzione, cioè per quell'antenna lì, questa 5 ottavi ne costa 90 euro, però c'è una 5 ottavi, per quanto leggera sia, anzi per me che sia leggera è un pregio, perché roba tipo manto va da 5-6 kg e non ne volevo assolutamente, io non volevo tirantare, palo basso, relativamente basso, in modo da non dover tirantare. Sì, ma ne esistono tante di antenne, no, ma quella Energy va benissimo, va. Ma io ti dico una cosa, ti dico, ce l'ho tanti anni io, e dico che ho fatto anche di ex con questa antenna. Sono arrivato a Taranto a Fondoscala pure. propagazione è buona, magari fondo scala, poi bisogna vedere con che smitter hanno dato il controllo, magari di chi si allegge. Sono molto relativi. È come quello dello Zeus, che addirittura non c'ha i numeri, c'ha solo le tacchettine senza i numeri. E praticamente arrivano quasi tutti in fondo scala. Sì, vabbè, non è così, no. Già cala quando non è. Sì, ma io, guarda, mi ha portato tante soddisfazioni. Cioè, siamo arrivati, vabbè, qualche vitamina c'era, siamo arrivati in Costa Ionica 9+30 e radio Super 5, eravamo qua però con un baracchino modificato, tutte cose, però soddisfazioni ce ne ha dato, la verità è, a noi ci ha sempre funzionato bene, ho sempre seguito i parametri del costruttore, abbastanza contenti, la verità, non è una super, non è una 50, non è una mezz'onda. Eia, è rientrato Claudio. Claudio, lo copi? Antonio, che ha alzato un po' l'antenna. E a voglia lo copio. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio. Allora, ho cambiato nuovamente il microfono, Marco. Questo è un K. Secondo me è un K questo. È troppo bello. Troppo amplificata, troppo K. E confermi? Sì, questo è il mitico 430, sono in cuffie, se senti qualche ronzio, sì, questo è il K430, non mi ricordo le regolazioni, allora così è a 1,5, così è a 1,5, ecco qua, così è a 1,8 come lo tenevo prima. Ciao Lotto, buonasera, ben ascoltato. Buonasera anche a te. Allora, a schirreggia. Trodieggia già, schirreggia. Questo schirreggia forte, dai. Non ce n'è problema. Non mi posso lamentare con questi ciclafusi, anche se sono adattati, però funzionano bene. Ma la sorte già si sente che è bella spinta, qua cavolo mi stai arrivando, sei sul più. Più del più 30 qua. Ascolta, ma tu hai praticamente fatto qualche lavoro all'antenna, perché stai arrivando molto più forte di prima. Sì, l'ho alzata di almeno un metro in più. Va bene, sei quasi 9+10, ottimo per la truppa. Va bene, quindi Marco lì, si sente la differenza, vai, K. Gianfranco ha chiuso da 5-7 minuti, sarà, dovrà andare a mangiare, e mi ha detto che c'è un film carino, ovviamente di fantascienza, ma quello è degno di essere visto, dai, per i miei gusti. E Antonio qua, io gli ho detto, ci vorrebbe uno strumento, cioè come arrivava prima arriva adesso, non me ne accorgo qua, c'è troppa poca differenza. E poi dovrei ricordare quanto arrivava prima, però siamo lì, è tra il 9,20 e il 9,25, più tendente a 9,25. Vabbè, tu ce l'hai più vicino, però Antonio, per avere quell'antenna lì, ti dico che sta andando alla grande, va veramente molto molto bene. Sì, quell'antenna praticamente, quando tutti si lamentano che non rende nulla, è perché la mettono magari in basso, terrazzini, finestre, però i piani bassi magari. Se la metti sul tetto, per quanto sia caricata, è quasi un carico fittizio, riesce comunque a irradiare. Per installazioni temporanee, dicevo mi, Anto, è temporanee, poi quando potrai ti pidi una mezz'onda, ti pidi una 5/8, anche leggera, se vuoi. Io invece avrei voluto sentire, e non lo sento più da mesi, Fabio Master si doveva piazzare la famosa Venom, no? E io l'avrei voluta sentire per vedere se rendeva o no, perché su internet, Claudio, ho sentito opinioni discordanti. C'è chi la faceva a pezzi con l'antenna e c'è chi invece la lodava, cioè dicendo che per il costo che ha, dopo tutto rende abbastanza. E invece poi non ho più sentito Fabio, non sparito proprio. Adesso sto facendo un passaggio attaccato, com'è? Tanto. Forte sono. Sì, sì, 9,20. 9 più 25 qua. Cazzo ma devi Giulio. 9,20. Quante Gianni. Cazzo ne ha geniali. Ma non lo so, Marco, perché so che Fabio era incasinato ad Olbia. Non lavoro ad Olbia, quindi non so se sta viaggiando, se è fisso ad Olbia, non lo so, non l'ho sentito neanche più io. Eia, ma sai perché te lo dico, Claudio, questa Venom? A me mi lasciavano perplessi questi radiali corti corti tipo X30. C'è una 5/8 con radiali da 60-70 cm, mi pareva una cosa lonfia. Pensa che la mia ce l'ha da 1,30 m, ogni radiale è 1,30 m. Però c'è chi la usa, dice va bene. E poi sai cos'è? Tuttora credo che dall'Inghilterra te la danno per 2 lire. Cioè, se questa mia costa 90 euro a Sassari, quella con 50-60 euro te la porti a casa. E c'è sia mezz'onda sia 5/8, volendo c'è anche in fibra di vetro, però a me la fibra di vetro non mi ci va. Io l'ho sempre detto, a me piace l'alluminio. Scelta personale. Vai, Claudio. Ma quella di Antonio che antenna è? Una Storm 27, quindi di sotto. Il capa, quella lì è. No, di Antonio sì, la Storm. No, io dicevo quello di Fabio, la Venom 5/8. 3 radialini, però troppo corti. Poi la bobina è coperta, Claudio, non è come la mia che vedi quel cilindro trasparente e vedi proprio la bobina. Lì è coperta, non si sa bene cosa c'è dentro, se ci sono resistenze, come qualcuno aveva detto, se c'è una vera bobina. L'avrei voluta toccare con mano mia anche con l'antenna. O comunque sentire, vabbè. Vediamo se rientra. Comunque se ha ricominciato a lavorare è buon per lui, anzi è meglio buttarsi a capofitto nel lavoro dopo questo periodo tremendo. Ehi, già lo credo. Sì, 9 più 20 sta arrivando a 8, 9 più 20 e radio 5 perfetto veramente. Ma per caso avete parlato in due? Tanto hai parlato anche tu? No, sto rispondendo a Antonio a quello che ho detto poco fa. Sì, la conosco l'antenna di Fabio, però dice che la doveva piazzare ma non l'ha mai piazzata a quanto pare. Ehi, di nuovo comunque, sicuramente ha ripreso assieme a te, e sotto lo sentivo un po', non dico disturbavo la modulazione, però aspetta, tu sei 9 più 30, Claudio, lui ha attaccato 9 più 25. Caspita, per l'antenna che è allucinante, Sega. Vabbè, dai, se capita. Sì, costa poco sta Venom, è fatta, sai da chi? Dalla Sigma Eurocom, che non è la Sigma nostra, però non è la Sigma della Mantova nostra, cioè della Mantova italiana, è un'altra Sigma. No, va bene, Antonio, anche liscio è quasi 9,10, attaccato 9 più 20. Che linea è, Anto? Sempre 747. Quante volte da una ottantina? Sì, una cosa del genere, non lo so. Vabbè, io sono in posizione alta, poi, vabbè. Anche se sei vicino, comunque attaccato arrivi 9,25, perché aspetta, io sono con 20 watt, modulati 35, quasi 40. Arrivo 9,30, quindi hai veramente un ottimo segnale, ma anche qua è 9 più 20 pieno, mentre staccato sei 9 più 10, è un bel mio aumento, Marco, quel lineare. Sì. Sì, senza filtro penso che con 4-5 watt già un'ottantina effettivi di via. Io per eccesso di prudenza no, usavo il filtro, ma poi non, tutta roba, come di roba comprata e accantonata, cioè io mi devo aprire la bancarella, mi Claudio, disfarmi di tutta la mondezza, perché tutti i soldi fermi, così come avevo tolto di mezzo gli Iaesu, roba comprata per pazzia e poi non era roba che rimaneva sempre e solo in scatola. E cosa si farà adesso? Comincia a scremare. Non si attrece, c'è un baracchino che mi può interessare, ma no, ci caffugi, è un baracchino serio, baracchino almeno 40 canali, non me la frega niente, sono le bande laterali che esca bene in AM, me lo fai sapere, magari me lo compro, perché io in, come baracchino uso l'Airbex, è la 48, baracchino, poi vabbè, il Dakery, noi più base, i PCB sono base, vabbè quelli base. Però come baracchino non ne ho, c'è un vintage d'Airbex che esce molto molto bene, da 15 watt, c'ha le bande laterali, c'ha 160 canali, va molto bene, ed è quello che se vuoi te lo faccio anche sentire perché è comodo e c'è il panne più 3 attaccato, va molto bene, veramente bene. Se capita, ma è un baracchino serio, meglio di quello, insomma, di ultima generazione, lo prenderei volentieri, ma poi non costa un casino i soldi. Ecco qua, là, sono tornato un pochettino più basso, se no magari chiudo anche televisione, no? Ehi, ancora c'è bisogno, hai fatto la prova, basta così, 6-9 più 10, a voi ce n'è per i maiali, capito Marco? Ehi, no, più che altro questi accessorietti, che ne so, linea retto, che io non voglio mettere nulla di lompio qua, cioè voglio che in qualsiasi momento bussino per eventuali controlli, eventuali guai di cui non so nulla, io ho tutto 3009, ricevitorino, punto. Questi bau bau, a pulirmi il sedere, non capito, ma proprio 15 euro, 20 euro uno, tutto a scremare, a svuotare la robaccia inutile, ok, non che abbia molto, poi baracchini seri, vabbè i baracchini secondo me non sono mai seri, sono baracchini. Uno se si accontenta che escano limpidi e modulazione. Comunque, vabbè, i baracchini che ho, bene o male, escono tutti limpidi e nessuno ha problemi di modulazione. Parlo di quelli con l'SSB, AM, FM, SSB, sono tutti abbastanza buoni. Poi dipende dall'uso che ne fa uno, se vuole mettersi il microfono aggiuntivo, che ne so, ci vuole l'adattatore, c'è quello che ha quella presa RG45 lunghissima, tipo Iaesu, e lì ci vuole l'adattatore, bisogna farselo, bisogna o crimpare lo spinottino tipo modem, il modem del computer, no? Oppure si compra l'adattatore, lo vendevano dall'Inghilterra, non devi fare nulla, costa un po' però. Te lo riduce da RG45 a 4 poli. Va bene, guarda, questo è l'Airbex, c'ha l'AM e l'SSB, non ha l'FM, il microfono è il TAN più 3, guarda quanto esce bene. Sì, leggermente più metallico, vabbè, ma quello è il TAN, leggermente. Allora, sto vedendo che un venditore italiano, tale 1000V, si chiama 1000V.it, vende la Venom, che è una 5 ottavi, ma è un po' più corta del normale, probabilmente c'è un po' più di bobina e meno stilo, quindi 5,80 m, 3 radiali, 5 ottavi, 42 euro la ribassata, 42 euro più 8 euro di spedizione, in totale 50 euro c'è una 5 ottavi, e magari funziona quanto questa me, chi lo sa, l'ho provata. Va provata, sì. No, vabbè, no, non è metallica, è che c'ha gli acuti molto molto alti questo, capito? Ti piace tanto questa modulazione? Questo è il baracchino. Ah, questa è perfetta, Va bene. Certo non è pompante come quella là, però tanto di cappello, niente da dire. No, va bene, mi sono ascoltato, va bene, dai. Ce n'è di peggiori, infatti sono modulati, portante ne ha 10, modulati sono intorno ai 15 watt, la massima potenza di questa radio, che ce le ha regolabili tra l'altro i watt, ce le ha regolabili, e va bene Marco, ottima ricezione, ottima trasmissione, per dirti, non è che, questo è il mio baracchino, collegato, ce l'ho da una parte, quando voglio non usare il K o usare il Barrett, usare insomma le radio professionali, uso questa oppure l'Inuit. Capito. C'ho anche l'Inuit con quello base, però lì c'è l'MB più 5. Lì c'è l'MB più 5. Adesso cambio, mi dici se è migliore questa qua del Tan più 3 o l'MB più 5. Riprendi a tu. Capa, no, adesso prova. E comunque anch'io adesso ho 212 watt, a vedere quanto sono. A 4 watt? Prova. Questo ne ha. Ora, questo ne ha 8. Questo Marco è l'Inuit base con l'MB più 5. Qual è migliore secondo te? Allora, a me piace questa perché ha più toni bassi, ma ti spiego il perché. Ricordati che questo 3009 ha una ricezione un po' più acuta. Quindi tra le due a orecchio mi piace più questa, però è una cosa personale. Sono buone tutte e due, questa la preferisco. Mi dicono sempre così, questa c'ha i toni medio-bassi, molto, molto bella come modulazione. Quella là invece ce li ha molto acuti perché è un Tan più 3, capito? Va bene. Comunque va bene anche questo, dai. Per dirti, ce li ho due collegati di baracchini e funzionano bene. Il problema è che questo è 23 canali, non fa nuda, quindi magari quando uso il baracchino uso quello là che è più completo, ecco, per quello ti ho detto, mi sarebbe servito un baracchino un pochino più performante rispetto a quello lì, capito? Vai Anto, riprendi, questa ti piace? Voglio che mi piace, questa è normale, è proprio normale di legge, com'è? Va bene, ottimo. L'altra è migliore, però anche questa non dispiace, va bene. Anche i watt sono normali, sono 4 watt, 5 watt, dai. 4-5 watt normali, com'è? Ah, guarda, sì, 9, è modulato quasi 9,5, quindi non è male anche il segnale. Beh, da te ho... Marco. Vadi. 2-3, prova. 9 più 20, modulazione... Sì, passabile. Vabbè, è che... Vabbè, questo è normale, normale proprio. Ok, adesso passa all'altro. Eccoci qua, sono tornato col K. K è K. Si dice K di Rogio o K di positivo. K quanto ti arrivo nel K? Uguale all'Inuit, sono perfetti, io ho questi baracchini qui, io sono perfetti di segnale, anche qua sei 9, modulato 9 più 5. E K, adesso torno all'altro, dai. Va bene, ottimo per la truppa. Che ora si è fatta? Però almeno un quarto, qua non si canta messa, va giù una fa, mi sono Bugiego, adesso vai della Maria De Filippi, ciu. No, pietà, la De Filippi no, mamma mia. Vabbè, a te ne mangi comunque, 50 euro una 5 ottavi, per quanto un po' più caricata la base, 50 euro spedita, cioè la Ringo, quella cacca della Lem costava 39 euro, e questa magari va molto meglio, chi lo sa, però questi radiali corti a me non mi convincono. Se c'è un piano di massa così banale, ridotto, vabbè. Vabbè Marco, intanto guarda, in linea di massima cosa cazzo te ne frega, va bene lo stesso, non penso che sarà un problema, dai, va bene. Ti stavo dicendo, non è che ti è rimasta per caso qualche bibanda di macchina, anche corta, piccola? Banda corta, ma di antenni di macchina? Ehi! Diciamo che, allora, premetto che quelli che ho uso tutti, ma ce ne ho dai 10 centimetri fino a un metro e mezzo, ammazzi ne ho, c'è da 10 centimetri, da 35, da 50, sottile, cioè finissima con quel cavettino sottile, da 50 col cavo normale del G58 più grosso anche lo stilo, quindi a 3 mm, un'altra lo stesso, particolarmente adatta per il PMR, è la Oxing 1510, c'è una discreta base magnetica. E poi doppioni anche di quelle fini da 50 ne ho due, ammazzi, senza contare quelle buone poi, tipo l'NR770, l'SG7009, che però lì ci vuole la base a parte, no, che vabbè io ce l'ho, però è tutto. tutta roba che in realtà quella avrei comprato per tenerla, ma le trovi da AliExpress a prezzi ridicoli, o Claudio. Oppure in Italia, per esempio la Oxygen 1510, sai perché è particolarmente adatta per il PMR, per dire, no? Poi non so se serve a preso materiale, perché il centro banda non ce l'ha 4,35, ce l'ha i 4,40, infatti è dichiarata 4,30-4,50, quindi avendo il centro banda verso i 4,40 risuona particolarmente bene in PMR, capito? C'è 1,2 di stazionaria, ma massimo 1,3 massimo, se pompi watt, se no non ne hai nemmeno i stazionari. Quella la vendono attualmente su eBay, costa una miseria, costa mi pare 15 euro spedita o giù di lì. No, non c'ho account, io non ho post eBay, non ho niente da ordinare. Non mi serve solo lo stilo mi serve a me, io poi c'ho tutto, c'ho la base magnetica dell'avvito e ciccia, non mi interessa completa. Mi serve uno stilo da 30, da 50 cm, non grande, perché devo andare fuori 2-3 giorni per lavoro e quindi mi voglio portare il... No, uso materiale, uso a forma una chiacchierata sui ponti, così, capito? Uso materiale, metto il 701 in macchina, il biband, c'ho già l'impianto pronto, l'avevo fatto, i cavi della batteria arrivano con le due bananette, lo attacco e... Capito? Mi serve solo lo stilo a me, solo lo stilo piccolo, da 30, 35, da 20 a 25, piccolo, bimanda però, 430, 440, 144, 146, oppure se va anche più in alto non me ne frega niente, però a livello amatoriale, capisci, solo lo stilo, attacco PL. No, dunque attacco PL, vabbè, a parte quelle vabbè non erano da vendere, però sono molto lunghe quello che ho, c'è la più corta è da 1 metro, è la NR770H, quella che ha la spiralina di metallo al centro, è lunga 1 metro, però è vera diamond, quella è veramente, c'è una ricezione stupenda, mi pare 2x5 ottavi in UHF. Le altre sono persino più grandi, quindi corte no, corte attacco PL no, sono tutte grandi. Sì, l'ho avuta la NR770 io, sì, ce l'avrei. Quella tutta in acciaio, VU, ottima. E quella me l'avevano fregata dalla macchina. Era centro al tetto, sono a Palmiero, una domenica mangiavo la pizza e mi sono dimenticato di staccarla, di toglierla. C'era l'attacco centro al tetto senza base metrica, quindi era sempre attaccata all'impianto che avevo, proprio VU, nell'Audi. Sono portato via, non so se è uno scherzo a qualcuno, che cazzo te ne fai, non te ne hai genere se non la conosci, quindi non so se l'hanno fatta apposta, se l'hanno conosciuta, insomma se è servito a qualcuno, speriamo che se l'abbia messa in culo invece di metterla nella macchina, e quindi niente, perciò la conosco, vai Anto. Forse si è allontanato. Sai quale andrebbe bene, solo che c'è da comprare, perché ti ho detto, anche volendotela prestare, quella è lunga 1 metro, comunque roba lunga. È lunga ma sottile, dopo tutto. Invece l'SG 7009 è una copia della tipo Oxygen, però è pesantissima quell'antenna, lì ci vuole una base da 150 almeno, da 15 cm. Guarda, l'SG 7009 è veramente pesante, proprio grosso lo stilo, però è 3x5 ottavi. E mi pare che sia 7 ottavi d'onda in VHF, cioè un bestione, è come la X50. Ti stavo rispondendo Cla, mi sei entrato nell'altro canale, adesso ho messo il blocco al microfono. Sì, è capitato anche a me, mi capita spesso quando trasmetto con le radio a VFO, molto tocco mi sposto e vado a punta di manicomio. Infatti anche col bar ti metto sempre il lock, non so mai, tocco qualche freccetta e vado in qualche frequenza che non devo andare. Va bene, no, volevo comprare perché mi serve, capito? Io ho una B10M della Comet, ma è molto piccolina, non è che renda molto. Capito? Siccome devo andare fuori un paio di giorni, 2-3 giorni, adesso non lo so. Andiamo a vedere un lavoro fuori e con mio cognato, quindi mi metto il VU in macchina. Va bene, adesso vedo un po' se la trovo, ma lo dico a lui. faccio ordinare che lui c'ha gli ordini li fa sempre lui, come non me. Va bene ragazzi, io vado a preparare che mi hanno chiamato, piacere avervi ascoltato, quindi 4.30 sta andando bene, sempre ottimo per la truppa. 4.40 è già un bel po' spento, dopo me lo accendo un pochino, vediamo se c'è qualcuno entro dopo. Ci sentiamo, vado a mangiare, ciao Antonio, ciao Marco e chiunque fosse in ascolto su 10. Ciao. Ciao qua, ce la risentiamo, dai. Se è più tardi o se no domani. Avanti Marco. Ehi Claudio, buona cena, ti volevo segnalare, se proprio la devi comprare, se la vuoi tenere anche per usi futuri, era molto buona la Diamond NR770S, è quella più corta della Diamond, quella che ha la spiralina larga, un giro di spiralina a metà antenna. Per intenderci, era quella che aveva Antonio Grobbe nella macchina, che poi gli avevano pure fregato. Quella è molto molto molto carina, naturalmente rende meno di quelle lunghe. Se vuoi ti mando il link di eBay, perché non sempre le trovi, è la 770S che sarebbe ciò, quella corta, mi ti mando il link. Buona cena, ci sentiamo Claudio, vai Antonio. Ehi, scusi Antonio, quella lì mi hanno fregato, la S, non quella lunga. Quella lunga era quella di Natalino che l'avevo messa quando siamo andati a scalapiccare. Capito che l'avevo trovato con me Natalino, era una bomba quella, quella che faceva tu. Quella ce l'aveva Natalino, però non so che fine abbia fatto. Io avevo la S, quella corta, centro tetto, bellissima, tutto in acciaio inossidabile, quella lì, quella ce l'ho portata via. Mi è rimasta la base magnetica, la basetta al centro tetto, e infatti le avevo messo il tappo per non arrugginirsi l'attacco PL, capito? E poi usavo la B10M della Comet, quella nera, che andava benino, però non aveva la resa della 770, capito, Marco? Quella lì mi hanno fottuto a me. Va bene ragazzi, dai, di nuovo un abbraccio, ci sentiamo alle prossimine, vado a cenare e cambio passo, vai Anto, grazie del link. Kappa, dai, ok, buona cena a Claudio e a tutti. Io adesso devo chiudere perché devo scendere giù nel piano di giù, dai, perché c'ho la camera da letto qua nel soffalco a fare delle cosette. Dai, ce la risentiamo alle prossime. Dai, torna a vendire, vai. Sento qua che c'ho la tettoia. Ehi Anto, dai, ci sentiamo. Sì, tanto adesso mi sono le 9 meno 5, è quasi l'ora del film, quindi perfetto, coincide, sì Claudio, se sei ancora all'ascolto, quella costa di più, quella corta costa di più di quella di quella lunga un metro Diamond, probabilmente perché è più richiesta, capito, più compatta, cioè la gente non ne vuole barrasoni, a meno che non voglia prestazioni particolari. Infatti costa ben 28,50 euro più spedizione, e invece la 770H da un metro costa meno, tipo 22-23 euro più spedizione. E comunque io consiglio, se proprio la devi prendere per uso amatoriale, prendi Diamond, cioè non prendere i cloni Oxin, Falcos, queste menate qua, perché magari o ti risuona male in una banda o non tieni watt. Ok, dai. Ok, ciao a tutti, buona serata, buona cena. Dai Marco, Claudio, dai, ce la risentiamo alle prossimine. Dopo se la sento la cosa, sono sotto tetto, la voglia che la sento l'acqua qua. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.